10 leggi del mercato nuovo. La prima sai qual è? Seguire la corrente. Profitti sempre, sempre al massimo, sai. Terza non è altro che l'abbondanza. Dire a tutti quanti questa è la libertà. Credi così, scritto nero su bianco. Evangelo. Santa.